e anche al sabato pomeriggio in compagnia di Claudio, a cui cedo la parola per la sua presentazione. Ed ecco, infatti, invece, per quanto riguarda il sottoscritto, la voce del sottoscritto è abbinata appunto a Contatto Rock, i due appuntamenti settimanali dedicati all'heavy metal e all'hard rock. Il sabato, come ha citato già Gianni, dedicato alla classifica, un'ora dedicata alle 15 posizioni migliori dell'heavy metal, dalle ore 14.30 alle ore 15.30, proprio subito dopo il programma di Gianni. Mentre il mercoledì, un appuntamento leggermente più lungo, dalle ore 16 alle ore 17.30, dedicato così ad appuntamenti vari, a volte si va a toccare l'appuntamento con gli special, a volte invece dedicato alle novità e a tanti altri vari appuntamenti, e a volte invece, come il mercoledì del 26, che sarà invece il giorno di Santo Stefano, uno specialissimo dedicato al meglio dell'heavy metal dell'84. E quindi, ragazzi, appuntamento a mercoledì alle ore 16 con le migliori 30 posizioni di gruppi heavy metal e hard rock. A questo punto mi pare di aver detto tutto, vi rimando quindi agli appuntamenti del sabato e del mercoledì con Contatto Rock, e lasciamo la voce invece a Gianni per i suoi programmi.